Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Estoy muy contento, pues ganar, primer equipo a ganar dos años consecutivos la Champions, marcar dos goles, muy contento. Y estamos muy contentos, yo también contento a nivel individual también, porque marqué dos goles, fui marcador otra vez, el mejor marcador de la Champions, así que muy feliz. Cristiano, ¿dónde está el techo? Porque ahora el listón lo ponéis cada vez más alto. ¿Cuál es el próximo objetivo? Ganar la próxima Champions. Davvero non ha bisogno di troppe traduzioni né presentazioni. Lo avete riconosciuto, Cristiano Ronaldo, raggiante dopo la finale di Champions di Cardiff, di cui è stato il grande protagonista. Due gol, man of the match, la sua firma quindi sul 4-1 con cui il Real Madrid ha asfaltato la Juventus. Per i Blancos la 12ª Coppa dei Campioni della storia, per i bianconeri la 7ª sconfitta in 9 finali disputate. E una delle due vittorie, lo ricordiamo, arrivò nella drammatica notte dell'Aizel. E immagino che a tutti i tifosi juventini siano già rivenuti gli incubi a sentire Ronaldo dire che il prossimo obiettivo sarà rivincere proprio la Champions, lui che ne ha vinte col Real 3 negli ultimi 4 anni, pensate. Di fatto quella di Cardiff è stata solo l'ultima pagina, la più recente, di una vera saga al contrario, che ha trasformato in ossessione prima, maledizione poi, il desiderio, il sogno della vecchia signora di conquistare la Champions League. E allora oggi proviamo a sottoporre la Juventus e la sua storia a una seduta di mental coaching, per capire se di vera psicosi ormai si tratta, ma anche se di questa ossessione si possa guarire, liberandosi di questa sorta di incantesimo. Ovvio quindi che, come in ogni psicoterapia che si rispetti, prima di tutto sia necessario rivivere i traumi per almeno provare a superarli, a esorcizzarli. E allora, torniamo subito con la memoria al 30 maggio 1973, a Belgrado, quando la Juventus affronta, nella sua prima finale di Coppa dei Campioni, l'Ajax del grande Johan Cruyff. Neeskens. Vrijwel stilstaand voetbal. Uitgaande van balbezit, Blankenburg. En daar is de kopbal en je zit er alleen op. 1-0 van Johnny Rep. Een zeer verrassende manoeuvre. En Ajax in de 5e minuut door Johnny Rep. Hier hebt u met de armen in de lucht. Dan wordt hij gefeliciteerd. En hier krijgt u de zaak nogmaals te zien. È il quinto minuto quando, su un morbido cross dalla tre quarti, Johnny Rep sovrasta Longobucco e batte Zoff con un morbido pallonetto di testa. Siamo all'alba della partita, ma la sfida di fatto finisce lì. La Coppa la vincono ancora gli olandesi. Per i bianconeri quasi non c'è rammarico vista la superiorità degli agliacidi. Per avere un'altra occasione bisognerà aspettare 10 anni, ad Atene, il 25 maggio 1983. Throw. Magat. Could have a try. He threatened to and then hit it. Well, what a beautiful goal! Such a lovely dummy at the start, which certainly caught the Juventus defense. And we have an early goal in the 8th minute. Fine play by Felix Magat. Anche stavolta i sogni bianconeri muoiono all'inizio della sfida con l'Amburgo. Dopo appena 9 minuti un tiro maligno di Felix Magath beffa Zoff. La Juventus, allenata da Trapattoni, quella dei tanti campioni del mondo, di Boniek e Platini, non riesce a liberarsi dalla ragnatela messa a punto dal grande Ernst Happel. E dire che i bianconeri pensavano a una semplice formalità contro i carnea di tedeschi. Di lì a poco, il 29 maggio 1985, la Coppa effettivamente arriverà a Torino, ma nella tragica notte dell'Aizel. Sul campo la Juventus batte il Liverpool per 1-0 con un dubbio rigore di Platini, ma nello stadio di Bruxelles si è a quel punto già consumata la strage di 39 tifosi bianconeri travolti a causa della furia incontrollata degli hooligans inglesi. Il 22 maggio 1996 poi a Roma è un'altra Juventus, quella di Marcello Lippi ed Alex Del Piero, a conquistare la Champions ai rigori proprio contro l'Ajax. Ma quella squadra, a lungo imbattibile in Europa, ne sprecherà ben 3 di altre occasioni per rivincere il trofeo. Eine friedliche Versammlung gehabt haben in der Innenstadt mit den Dortmundern. Da kommt die Ecke rein. Abwehr von Torhüter Peruzzi. Noch einmal die Chance für Lambert. Der flankt. Da recken sie sich hoch. Hitler. L'anno dopo, infatti, il 28 maggio 1997, quella Juventus, nella finale di Monaco di Baviera, si fa soffiare la Champions dal Borussia Dortmund, pieno di vecchie conoscenze del nostro calcio, in particolare ex juventini come Paulo Sousa, Müller, Reuter e Kohler. L'ex laziale Riedel invece fa una doppietta, poi Del Piero, entrato dalla panchina, accorcia con uno splendido gol di tacco, ma ci pensa Riken, appena subentrato, a chiudere sul 3-1 con un sorprendente pallonetto ai danni di Peruzzi. E meglio, non andrà dopo 12 mesi. Ma non ci conta la linea di fondo, può entrare, se entra il ballon, viene lui passato Raul, no, llegó Raul, viene Mario Carlos, il ballon che l'ha morto, Mijatovic, il suo gol, Ad Amsterdam, il 20 maggio 1998, il Real Madrid di Hitzfeld, con l'ex milanista Panucci in campo, beffa la vecchia signora, con un gol a metà ripresa di Mijatovic, in fuorigioco non rilevato dalla terna arbitrale. Eppure la Juventus non si dà per vinta e, ceduto Zidane, quel Zidane che la Coppa da allenatore gliel'ha soffiata proprio a Cardiff, torna da favorita all'atto finale della Champions. Il palcoscenico è tra i più suggestivi d'Europa, l'Old Trafford di Manchester, il rivale è il Milan dell'ex tecnico bianconero Carlo Ancelotti, in un derby italiano all'ultimo rigore. Adesso chi tira? Shevchenko! Che fa gol è finita! Se fa gol è finita! Sheva contro Buffon! Vai Sheva! Parte, vediamo! È il 28 maggio del 2003, sono proprio i rossoneri ai calci di rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari a sollevare al cielo la Coppa nella notte di Manchester contro una Juventus priva del suo trascinatore Pavel Nedved, ammonito e quindi squalificato nella semifinale vinta proprio contro il Real Madrid dell'ex Zidane. Le ultime due delusioni sono storia recente e anche recentissima, con la vecchia signora in entrambi i casi guidata da Max Allegri sconfitta dalle grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid. È il 6 giugno 2015 quando all'Olympia Stadion di Berlino, dopo aver fatto fuori ancora una volta il Real, la Juventus si gioca la Coppa contro i Blaugrana di Messi, Suarez e Neymar. La sciabolata tesa di Messi, gran palla, Jordi Alba, Neymar. Cerca spazio, forse per un cross, l'inserimento di Iniesta, attenzione, lo scarico, tiro, rete, Rakitic, Barcellona è già in vantaggio, incredibile, Rakitic. Finisce 3-1 per i catalani, ma i bianconeri sfiorano l'impresa. Morata pareggia il gol di Rakitic, Pogba e Tevez sfiorano il vantaggio, poi arriva a sorpresa la rete di Suarez e allo scadere il gol conclusivo di Neymar. E da Berlino a Cardiff il passo è breve, l'epilogo il medesimo. Casemiro, prova da lontano, rete, incredibile, Casemiro, forse con una leggera deviazione, beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Il 3 giugno scorso i bianconeri vengono travolti 4-1 da Real Madrid, andato in vantaggio con Ronaldo e poi subito raggiunto dalla splendida semirovesciata di Mandzukic. Ma la Juve sparisce nella ripresa e cede sotto i colpi di Casemiro, ancora Ronaldo e Asensio. Ebbene, fin qui la storia. Ora prendiamoci una breve pausa, poi proveremo a stendere la vecchia signora sul lettino del mental coach per provare ad analizzare la sua psicosi da Champions. Olimpia, miti e verità dello sport. Uno contro uno, arriva anche Carvajal, Cristiano Ronaldo prova, rete! Cristiano Ronaldo ha colpito, incredibile, sempre lui al 20esimo, Real in vantaggio. Casemiro prova da lontano, rete! Incredibile, Casemiro, forse con una leggera deviazione, beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Ancora verso Modric, sul fondo, riesce a metterla in mezzo, Ronaldo, rete! Cristiano Ronaldo sbuca come un fantasma alle spalle di tutti. Incredibile, 3-1. Numero su Lemina, lo fa fuori secco. Marcelo prova a metterlo in mezzo all'indietro e c'è il gol di Asensio. Trionfo Real Madrid. Pesante questo 4-1, Sara. Cronaca recente di una disfatta, quella della Juventus nella finale di Champions League di Cardiff, dominata per 4-1 dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. E dire che le attese della vigilia da parte di società e popolo bianconero erano ben diverse. Ma l'abbiamo rivissuto insieme oggi, nella prima parte di Olimpia. È ben noto quanto il rapporto tra la vecchia signora e la Coppa dalle grandi orecchie sia a dir poco complesso, viste le 7 sconfitte su 9 finali disputate, tanto da far pensare a una vera maledizione, a una fobia, a una sorta di psicosi. Ma è davvero così? Oppure questo stress da Champions si potrà prima o poi superare? Proviamo allora, per gioco, oggi a Olimpia, a stendere la vecchia signora sul lettino del mental coach, per capire cosa non ha funzionato a Cardiff e come quel blocco possa essere magari superato in futuro. E ne parliamo col mental coach per eccellenza qui a Olimpia, Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano. Ben ritrovato qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie, sono sempre molto felice di essere vostro ospite. Allora, professor Tirelli, cominciamo ad analizzare il quadro mentale della vecchia signora. Le chiedo come sia possibile spiegare quel blackout tra il primo e il secondo tempo a Cardiff contro il Real. Possibile che dal punto di vista psicofisico la luce possa spegnersi così all'improvviso? È stato sbagliato qualcosa nell'approccio alla gara? La difficoltà in questi casi è quella di trovare sempre il punto di equilibrio. Un punto di equilibrio che è dato da una reale e veritiera autostima, ma al contempo anche il rispetto e la stima per l'avversario. Quello che penso sia successo è che ci sia stato un eccesso di autostima che in modo conseguente ha dato meno spazio a quello che era un valore reale ad una squadra immensa da un punto di vista tecnico, dal punto di vista generale, quale è stato proprio il Real Madrid. Un altro punto di equilibrio che è venuto meno è stato quello della giusta tensione da performance, ossia in questo caso c'erano delle aspettative enormi sulla Juventus, sui giocatori della Juventus. Da una parte l'ansia della vittoria di una Champions che appunto non arriva mai rispetto a tutte le finali fatte, e l'altra è la tensione da performance data anche dal famoso triplete. Quindi in questo caso c'erano due traguardi da raggiungere e questo probabilmente non ha portato a quel punto di equilibrio che generalmente anche Allegri, sempre maestro nel tendere a raggiungere, a registrare. Per cui credo che questo sia stato uno degli errori, se vogliamo chiamarli tale, dell'atteggiamento dei giocatori della Juve. Ecco, come si può lavorare per superare questi limiti? E cosa cambia tra il singolo atleta e il lavoro con un team? Chiaramente quando si lavora con un singolo atleta lo si conosce, non dico al 100%, ma al 90%. Quindi sappiamo già quali sono le sue possibili reazioni prima di un grande evento, sappiamo gestirlo, sappiamo dare i giusti consigli e allenarlo a quello che sarà l'evento. Difficile è chiaramente quando si parla di una squadra intera. Io credo che sia giunto il momento di integrare, per esempio anche nella Juventus, una figura che abbia proprio le caratteristiche di un mental coach, di un mental trainer, quello che volete, che possa veramente accompagnare ogni giocatore secondo la propria storia, secondo la propria attitudine mentale, secondo le proprie caratteristiche emozionali, verso un traguardo, verso degli obiettivi e degli eventi massimali, top, come quello per esempio che è quello della Champions League. Questo è un particolare che purtroppo in Italia non è ancora così scontato, come invece può esserlo per esempio negli Stati Uniti, per altri sport come il football americano, ma anche nell'NBA. Quindi io credo che sia giunto il momento di portare a compimento un supporto anche mentale oltre a quello fisico, che peraltro probabilmente in questa finale è stato deficitario a causa di un eccesso di prestazione, di ansia da prestazione. In questo caso l'ansia da prestazione ha limitato i muscoli e questo nel secondo tempo si è visto in modo molto chiaro. Strumenti utili da utilizzare ce ne sono? Beh, ci sono molti strumenti, anche tecnologici, molto semplici, però per esempio ricreare in un ambiente quelle che sono le situazioni di audio proprio di un tifo che in quel momento è contro. Questo veramente c'è già, per cui si allena anche a livello sensoriale il giocatore, preparandolo a quelli che sono momenti di antagonismo, tra virgolette, lo dico in modo positivo, dell'ambiente. Cosa succede? Che quando un atleta è forte mentalmente, quindi viene allenato, perché la mente si allena così come i muscoli, allora l'ambiente ha meno potere sull'atleta stesso. Tanto meno siamo allenati, tanto più l'ambiente in certe situazioni di difficoltà prende il sopravvento. Ci sono delle singole sedute che si possono fare con i vari atleti, soprattutto su quelli che desiderano essere aiutati, perché il problema è che spesso un supporto di mental training viene confuso dai giocatori con una seduta dallo psicologo. Questo è diverso, per cui abbiamo degli atleti che sono totalmente avversi nei confronti di un mental trainer, e ci sono atleti che hanno capito che invece questo supporto, anche con sedute di dialogo e di allenamento attraverso visualizzazioni, allenamenti attraverso registrazioni mentali di possibili accadimenti durante la partita, verso i quali abbiamo già delle possibili risposte da mettere poi in atto a livello pratico durante il match. Possibile poi, professor Tirelli, che le tante sconfitte pesino ora sulle spalle, sulla storia del club, dei giocatori bianconeri, come una scimmia, insomma? Sì, credo proprio di sì, ma questo mi riporta al discorso di cui poco prima parlavo, cioè che la comfort zone, la Juventus è in comfort zone all'interno dei confini nazionali, dove la fa da padrona. Questo fatto di non essere padrona mentalmente, emotivamente, fuori dai confini, ormai sta diventando un marchio che si ripete, si registra, si riflette da giocatore a giocatore, e su questo, questo è il punto su cui bisogna lavorare, togliere il concetto di comfort zone in Italia e mettersi a disposizione di un'attitudine internazionale. Se vogliamo, l'Internazionale come squadra e il Milan hanno già in sé i nomi internazionali. La Juventus è veramente italica, però questo è un punto su cui dobbiamo sicuramente lavorare. Le chiedo ancora, professore, e con tutte le cautele, il rispetto e la consapevolezza che il caso e il tema richiede. La dolente vittoria della ASL influisce su questo stato psicofisico? E se sì, in che modo? Noi sappiamo che i pensieri hanno una grande forza. Tanto più io ripeto pensieri costanti e fissi, tanto più questi si fissano nella realtà. Quindi questo può essere, diciamo, accettabile come discorso da un punto di vista societario, per gente magari non come gli Agnelli di oggi, che ai tempi erano molto giovani ovviamente, però sicuramente nell'ambiente societario della Juve questo pensiero sicuramente è rafforzativo e ovviamente in modo negativo. Meno credo sia in qualche modo sentito dai giocatori, pensiamo a un Dybala così giovane, che quella tragedia non l'hanno nemmeno vista, non l'hanno nemmeno sfiorata. Per cui sicuramente da un punto di vista societario questa memoria così forte può riportare anche nell'attualità situazioni molto pesanti. Stefano Tirelli, ringraziandola per essere stato ospite di Olimpia oggi, le chiedo, provando a chiudere con un sorriso, la paziente Juventus è grave? E se arriverà, quando arriverà la guarigione dalla sindrome Champions? No, arriverà nel momento in cui si penserà che anche la finale di Champions League è veramente la stessa partita nella quale al 100% si profondono energie come quando si incontra, con tutto rispetto parlando, il Crotone. Cioè, se l'ansia da prestazione diventa eccessiva, come è stato anche sabato sera recentemente, questo diventa difficile. Quindi la cosa sicuramente, tra l'altro, come spesso accade, quando si sfata un tabù, poi è molto più facile ripetere in questo caso i trionfi. Quindi, insomma, una volta guarito, la Juventus potrebbe vincere una decina di Champions. Sì, non so in quanti anni, ma tutto è possibile nella vita, certo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.